100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Ricomincia un'altra settimana dopo che quella passata è stata ancora una volta da dimenticare per i mercati finanziari che da inizio gennaio scendono senza freni. Non ci sono temi nuovi ad agitare le acque, ma sempre il consueto scenario internazionale difficile. Il petrolio continua a gravitare poco sopra i $30 al barile, con qualche sporadico tentativo di recupero ma senza successo. La politica monetaria internazionale si trova di fronte a nuove sfide. Parlando nella sede della Bundesbank, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha sostenuto che a tenere l'inflazione bassa concorrono forze globali e ha confermato che ulteriori stimoli monetari arriveranno a marzo. Mentre dagli Stati Uniti il governatore della Federal Reserve di New York ha ammesso che l'aumento dei tassi americani fatto a dicembre potrebbe non essere stata una buona idea, lasciando capire che anche per la politica monetaria americana ci potrebbe essere qualche ripensamento. Da segnalare la disoccupazione di gennaio, che è stata diffusa venerdì scorso, che ha mostrato la creazione di un numero di posti di lavoro inferiore alle attese, ma il tasso di disoccupazione complessivo è sceso al 4,9% e il dollaro è continuato a scendere sull'euro. Le banche italiane sono ancora motivo di preoccupazione, legate alle incertezze sulle modalità con cui sceglieranno di gestire le sofferenze. Il governo continua a rinviare il provvedimento destinato a rafforzare il sistema del credito italiano. Intanto si attendono delle possibili novità sulle aggregazioni italiane, in particolare su quella data per imminente fra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Forse in settimana arriva una lettera di intenti. Oggi vedremo la reazione del mercato al bilancio diffuso venerdì scorso da Banca Monte dei Paschi, una banca che ha grosse difficoltà, soprattutto in questo momento si sarebbe messa alla ricerca di un partner sempre per la gestione appunto delle sofferenze. Anche Intesa San Paolo ha diffuso i dati venerdì, con utili 2015 raddoppiati e la notizia del raddoppio anche del dividendo. Per gli appuntamenti della settimana, mercati cinesi chiusi per tutta la settimana, arriva il PIL europeo, le vendite al dettaglio americane, in Italia le trimestrali di Yuxe, Net-a-Porter, Fineco, Enel, Unicredit, Banco Popolare, Generali, Mediobanca, UbiBanca e Telecom. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Sulle borse torna la paura dello spread e Atene diventa ancora una volta epicentro della speculazione, oltre che dell'azione di politica economica dell'Europa. La borsa greca è arrivata a perdere oltre il 10%, salvo poi chiudere a quota meno 7,6, creando un alone negativo per tutte le altre piazze europee, Milano compresa, che dopo un avvio in rimbalzo è scesa a meno 4%. Lo spread dell'Italia è tornato a superare quota 140, con un balzo di quasi il 20%, del tutto anomalo in quest'ultimo periodo. Ma cosa sta succedendo? La Grecia è in tumulto per l'impatto che sta avendo la riforma delle pensioni voluta dal governo Tsipras e dettata dalla cosiddetta Troica, BCE, Unione Europea e Fondo Monetario, che di fatto ha commissariato la attuazione delle riforme in cambio del prestito di 86 miliardi. Il riassetto del welfare prevede la riduzione a 2.300 euro dell'ammontare mensile massimo dell'assegno pensionistico, prima era 2.700, e la pensione minima ottenuta con almeno 15 anni di contributi viene ridotta a 384 euro. In gioco ci sono 86 miliardi di piano degli aiuti negoziato a luglio e la Troica ora minaccia di non erogare la prossima tranche, che è di 3 miliardi e mezzo e dovrebbe servire proprio a garantire il pagamento di stipendi e pensioni pubbliche. Da giorni gli agricoltori bloccano la ferrovia di Atene e molte strade strategiche, ma hanno annunciato manifestazioni anche i professionisti, i dipendenti pubblici e i camionisti. La Grecia, come l'Italia, è poi oggetto dell'ipotesi della cosiddetta mini Schengen, che escluderebbe i due paesi dalla libera circolazione delle persone e lascerebbe alla zona sud dell'Europa la gestione diretta e in solitario dell'ondata migratoria dei profughi siriani. Tsipras sta cercando di negoziare uno scambio tra questi due tavoli: più disponibilità della Grecia nell'allestire i campi profughi e nell'accogliere la prima ondata di migranti, in cambio di un abbattimento del debito. Una mossa audace su cui i mercati però non scommettono, anzi temono che la Grecia possa tornare quanto prima a intaccare la fiducia su tutta l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.